Ricordi ancora il tempo che fuggì, quando eravamo insieme notte di, e grazie ai clienti che portavo a te, tu mi vestivi dalla testa ai piedi. Così va il mondo, va anche così. Se poi veniva uno dei tanti me ne uscivo allora dal letto e mi bevevo un bel cicchetto, e poi correvo a ritirare il grano e gli dicevo torni presto qui. E son passati 5 mesi e più, in quel bordello veri chiusa tu. Ti rinfacciavo le porcate che facevi e tu mi davi un cazzottone in bocca e andavo a letto con la faccia blu. Eppure mai dimenticare potrò quel caro luogo e quanto ci si amò. Quanto ci si amò.